Control radio. And my name is Ragnar Paisa. Ragnar Paisa. Prova. Yo. Bla bla bla. Yo. Mamma mia, c'è una ciabatta in bocca. Allora, dopo la pausa estiva più lunga della storia, nemmeno bambini all'asilo stanno così tanto fermi come noi quest'estate. Pausa estiva, poi si è tornati, tra un po' è già inverno un'altra volta, vabbè. E ci siamo lanciati sulla macchinetta e caffè subito e poi in bagno. La conseguenza diretta è quella. È ovvio. Vabbè, è un piacere essere qua di nuovo. Ripartiamo stasera. Ragnar Paisa, d'ora in avanti, di nuovo, tutti i lunedì, dalle 21 alle 22.30. Ricordatevelo, segnatevelo sul taccuino sotto la lista della spesa. Eccolo. And the Zane. Duccia dirà che ora c'ha la macchinettina nuova stasera. Senti che situazione. Introduciamo per una nuova stagione la 202 di Ragnar Paisa. Con gli effetti primo più distorti del mondo. È il primo strumento che appartiene alla Rue Pro. Esatto, proprio acquistato. Autocostruito. Infatti ora esploderà. E fra poco autodemolito, a brevissimo, insomma. Tempo tre puntate sarà da buttare via già la macchinetta. Eccolo. Bene, amici. Questo sotto intanto è John Coltrane, così, giusto per, no? Mi sembrava giusto dirlo, voglio dire, no? Senti che storia. Vabbè, io devo andare di là, Duccio, vuoi venire te qua? Vieni qua, saluta, no? Educazione, voglio dire, un salutino. Yo. Duccio al microfono, Tommy controlli. Bubu all'atmosfera. Bubu alla tromba. E big man alle cazza. Senti, ma stagione nuova, ma la solf è la stessa, c'è solo roba buona. È chiaro. Ma il nostro numero di telefono l'abbiamo già detto? Ovvio che no. 055 73 99933. Come? Non per offenderci, è quello il numero, man. Per offenderci, questo è il numero giusto. Man. E info.ragnampaisa@gmail.com per scriverci le cazze. E per volerci di bene. E che si fa? Si anticipa un po' di situazioni? Sì, ora si fa un... Vi lasciamo cuocere. Si fa una riunione piano fra di noi. Si fa un consiglio d'amministrazione di Ragnar Paisa. Si decide due date, eh? Sta squillando il telefono di subito, dio buono. Hai visto? Ok, non ci si rede. Yo. Questo è Tommy, a fra poco. Ragnam Paisa. Buonasera, signorina, buonasera. Com'è bello stare a Napoli e sognare, mentre in cielo sembra dire buonasera la vecchia luna che sul Mediterraneo appare. Ogni giorno ci incontriamo camminando, dove pare che la montagna scenda in mare. Quante cose abbiamo detto sospirando in quell'angolo più bello del mondo. Quante volte ho sussurrato amore t'amo. Buonasera signorina, kiss me good night. Buonasera signorina, kiss me good night. Batturu adotte di tabato di terunturo di viva. Buonasera signorina, buonasera. Come bello stare a Napoli e sognare, mentre il cielo sembra dire buonasera la vecchia luna che sul Mediterraneo appare. Ogni giorno ci incontriamo camminando, dove par che la montagna scenda in mare. Quante cose abbiamo detto sospirando in quell'angolo più bello del mondo. Quante volte ho sussurrato amore bravo. Buonasera signorina, che bella taglia. In quell'angolo più bello del mondo. Quante volte ho sussurrato amore bello. Brooklyn out of sight, brown sandals handling MCs with angles, commit to street crime. corners where the players be jaying. I'm saying a diggable swinger, word to mouth, brought the clout. Especially in the summer, you vanish like vapor, burn paper. We deal real, real, so chill. We'll linger in the. I would like to play a little tune I just composed not so long ago. Miss Billie Holiday. The music called jazz. Sounds of the African, or should I say the mother, bringing us back again from the drumming on the Congo. It came with a strong flow and continued to grow. Feet moved to the beat of the tabalo. Now dig the story and follow, for then it landed on American soil. Through the sweat, the blood, and the toil, it praised the Lord, shouted on chain gangs. Pain they felt, but it helped them to maintain. Scott Joplin grass, Bessie Smith's blues, St. Louis blues, they were all the news, ringing smooth in all the listeners' ears, fulfilling the needs and planting the seeds of a jazz fan. King Oliver's group was a train coming through to Chicago, bringing a New Orleans groove. And with Satchmo Blue, the audience knew Basin Street Blues was no whole house tune. It was music great to dance to, great to romance to, with a lot to say to you, relaying a message, revealing the essence of a jazz fan. Fly on over the sea. take over the world. Puffin' on stramonium, underground like potholes were golden. Fly sold these bars like Garden, that's Smithsonian. These filters for custodians, homeless men, horny overgen dudes. Rise at my laptop looking at Red Fallopian too. They like your Joey, you rude. I'm like, if only you knew. I'm only in school for cosmology, that's why I act as lonely as you. You see, I'm wise behind my ears and my peers, so my voice over the sneers is the only way they hear what I got behind my membrane. But I've been smoking chem strain, so lately I've been having hard times with remembering. And be patient. My studies prove Egyptians ain't shit, cause I believe that we could be like Neo in the Matrix. But fuck it, I'm erratic. Mama locked me in the attic, please, till I draw on the static and my somatic anatomy and come out imputed with fusions of blueprints and illmatics. I've been going raw, this is how I feel rapping. We get y'all certain tactics, so y'all can't even gas us. We taught you how to be prepared, but still attacking the masses. Y'all better get y'all gases, cause we bout to annihilate the new Babylon Empire. My empire gates in the Empire State. I'm on the higher platform, look at the way they platform. Never fuck with phony men, cause I don't like my back torn. Nigga, ask Quan, this that top rhyme you ain't used to. Keep it neutral to scoop with and tell her no beef like noodles. State of mind like a murderer. I pop cruise with my verbal Glock for a living. I step with my sign, park shots is what I'm giving. I'm driven through my AK style. State of mind, giving all piercing sights, bright lights to leave you blind. Through the Yes Your Quran, WB in your area. Here to crush some seeds and call hysteria. Our barrier with the verbal tech letting loose. I make it stiffer than moops. I'm rugged like cymbals. Bring it loose, I get rugged over loops. Ship you out like recruits and proceed like the roots. I want a lamp and an act with a Mac pulling holes with stacks of dudes. Forget pencils, yo. My mind will always invent dope rhymes nonstop. So you better drop when I come with my verbal block. A long time, you know what I'm saying? So about to rap on wax. Now guess who's back? The chart hitter, not a quitter, nor a bullshitter. These cats know that I'm the best man out the litter. Yeah, they talk, but they be talking diarrhea. Cause none of them got the capability to be a another Mikey D, cause I ain't having it, kid. You could do what I did, yo nigga, how the fuck you been? I've been through wars and I came out untouched. I'm too much whenever the microphone is in my clutch. I get props, I get stopped by the cops. That's how it is, Hops, when my tape's in a box. I've been through crews like a hoe and took them out. I always let niggas know I keep the soul cause I'm a lyrical pro. I play it mellow, word them up, I'm on the down low. I don't wanna make it to five. You know what I'm saying? Shit is real, G. I'm on the down low. Gotta represent 94. I'm on the down low. Kick cutting, so scratch. Than a rapper with practice, I'm fantastic. True meaning of what bad is. 15 years on the scene, can never fall back. I'm small back, and fucking right, I think I'm all that. You know a nigga with a doubt? Well, you could bring him to my session and watch me take him out. He'll RIP when I rip him, then I stick him in a body bag, and then I'm gonna zip him. I throw him in the ocean and watch him sink, cause he shouldn't waste ink on them rhymes, wasting time, cause the rhymes stink. Mikey D's reanimated, and these other rappers hate it. I got skills, they can't fade it. I keep the soul cause I'm a lyrical pro. I play it mellow. Word, I'm on the down low. Skills. Skills. Skills. Skills. The microphone. It's skills. The funky beat. It's skills. Skills. Top rank, point blank, we vital. Spit flows, rip shows, peep the recital. Skills. Nah, you feel it when we drop those hot beats. Stop foes, killing shit, we got those. Skills. Hits, the music that the street loves. Each thug is now repping this with deep love. Skills. Gangstar, dueling again, ruling again. Watch as we do it again. It's the true living with a youthful vengeance. And I'm a judge, Mathis, your ass, give you a crucial sentence. You need at least 12 jewels to practice. You're too enthusiastic, male groupie bastard. Still trying to convince us some more. In your roar, that's what you need a minister for. Again, it's the law, got you up against the wall. We the gulliest, fuck it, then it's us against y'all. Mic skills, tight drills, like I'm Michael Jill. Like when he rifle the film, it's how I stifle the ill. Slide off, kid, and let a grown man finesse it. We bold and impressive, that'll I manifest shit. Some new product from a known team. Niggas know me, and you can bet they know green. So here we go for your stereo. And you can tell that it's real when you hear me go, hear me go. Skills. Top rank, point blank, we vital. Spit flows, flip shows, peep the recital. Skills. Now, you feel it when we drop those hot beats. Stop foes, killing shit, we got those. Skills. It's the music that the street loves. East Thug is now repping this with deep love. Skills. Gangsta dueling again, ruling again. Watch as we do it again. You little suckers know better. I go head up. If your man left the joint in the whip, then tell him go. Che c'hai le skills? Che ce l'hai, ora chiacchieriamo poco perché ci hanno affamato subito dopo, certo, i primi due minuti di programma della prima puntata. Ma mi sa che era tipo da giugno che ci voleva telefonare. Poi ci si è accorta che siamo andati in ferie. Ha detto vabbè, ora me lo segno. Quando ricomincia a settembre arriviamo subito. Li pettino io. Comunque il numero è quello. Continuate a offenderci. Assolutamente. E invece sulla mail ad amarci. Ad amarci, certo. Tanto, è così. Ah, no, volevo dire solo un paio di robe rapidissime. Visto che c'è stato un inizio un po' jazzuso. All'inizio, a parte John Coltrane, poi Jazz Teen, The Gangstar, che stava sulla colonna sonora di il film di Spike Lee, mi sembra Mo' Better Blues, di Spike Lee, Mo' Better Blues. E poi Dog It, di quel super gruppo dei Digable Planets, un po' poco considerati, ma a me, insomma, mi sono sempre piaciuti un sacco, o no? Uno dei nostri gruppi preferiti. Ci piacciono proprio un sacco i Digable Planets. E poi Fred Buscaglione, dedicato a tutte le ragazze all'ascolto. Buonasera signorina, buonasera. Che stile, che stile. Il mio idolo Buscaglione. Yo, vabbè, Duccio, c'è Duccio. Pronto, a dopo. Bla bla bla. Skills. Gangsta dueling again, ruling again. Watch as we do it again. Thank you. blind love must be a kind of blind love. I can't see anyone but you. Suck a dick, shrack, shrack, nigga. ASAP. Toot that, shoot that Glock 9. Jiggy nigga, I'm about mine. Pinky ringin' my white shine. Yo bitch callin' my hotline. Why Bucky look cock-eyed? Big pocket sit lopsided. Talk stupid, get your mouth wide. We bout it and route it. Bitches all in my jock, huh? Pretty nigga might stop time. Told y'all young niggas run the shit. Putting red lights and stop signs. ASAP niggas on the scene, huh? Young drill niggas on my team, huh? Serving fiends, huh? Bitches scream, huh? See the beam, huh? It's the Nina. Mas traga Lucifer pra mim em uma bandeja. If you make yourself more than just a man, if you devote yourself to an idea, and if they can't stop you, then you become something else entirely. Bandeja pra mim. It's too bad your favorite rappers ain't inspired. That's why a nigga came to light the fire. Now the game is on my Oscar Mayer. I'm the nigga kids admire. Labels try to sign me, speculating my identity. Good luck, you never find me. Tem uma bandeja pra mim. Tem uma bandeja pra mim. I guess it ain't no nice way to tell you niggas it's game over, huh? Maybach music. Pray for me. Hallucination of money, why niggas stomach just rumble. Had to fuck with the Haitians and break a kilo to crumbles. Nigga living in rubble, but then I'm labeled a rebel. Any nigga want rumble, somebody hand me a shovel. Gotta silence the lambs, get on my Buffalo Bill. Stepping off the Sonoma with the black duffel bag fill. Got a cute bitch with me, favor Kamara for real. Got Meek Mill on the celly, that Meek nigga Millie. Worth a few mil. Woo. I multiply what I manage to multiply. Witness real niggas fail and watch you fuck niggas strive. Witness bitch niggas tell, Jabbar just got 25. At this point in my life, I'm just trying to survive. Homicide, stay on my mind. Christopher Wallace on my dime. R.I.P. to the legend, Tupac Shakur with a 9. Machiavelli returns as God forgives and I don't. Resurrection of the real, time to get richer than Trump. I'm rolling the dice, 4, 5, 6. Young nigga, 19, 4 or 5 bricks. Praying on your niggas, sinners full of hate. God forgives and I don't, only hustlers relate. Trying to keep my head above water, nigga. We pirates out here, nigga, just trying to stay afloat. Now I ride for my niggas. Fascination with fortune, afford me mansion and Porsches. Panoramas of Porsches, marijuana imported. Dreams of getting cream and never to be extorted. Seen so many things, be preposterous not to record it. Woo. Product is in demand, profit not far behind. Got on my mother pearl, she fucking up father time. Babies be having babies, I'm talking about how I grind. Niggas thinking it's voodoo, the way bricks be multiplying. Affiliated with wealth, associated with death. Self-made millionaire, snatch a triple beam off the shelf. Yeah, straight Grim Reaper, Air Jordans walking the street. Blackberry boss, one call you put to sleep. Yeah, I'm rolling the dice, 4, 5, 6. Young nigga, 19, 45 bricks. My mother thought he was retarded when she met him. She said, yeah, some people like cripples, some people like retards. I'm covered. You on your own, man. Dip set, dip set, dip set, dip set, dip set, dip set, dip set, dip set. Santana, sack, sack. Yeah. Woody, grip, grip. Nigga, tech, text. It's Santana. Wet, wet. Kill on your set. Dip, dip set, set, dip, set, dip, set. What? Yeah. Jewels, dip, dip. Santana, sack, sack. Woody, grip, grip. Nigga, tech, text. Who you wet, wet. Set, yeah. Yo, I be with a gang of gangs who hang and bang. Animals, orangutans, hammers move, bangers bang. Damn it, dude, the game has changed. I got a whole selection, a whole collection, a whole selection of my whole collection. And I'm big pippin', stick dippin', quick shipping. Bitch, listen, this isn't no damn game in here. Yeah, the whole bird gang's in here, like Kurt Cobain was here. Yeah, yeah, yeah, yeah. And I'm dangerous, yeah, brainless, yeah, stainless, yeah. Aim it, yeah, bang it, yeah. Y'all some dead motherfuckers. And my ditty bop, barge through the city block. Hard with the pretty Glock. Dodger, you getting shot. Yeah. Ain't got no jury on, still I'm shining hard. Ain't got no bodyguard, walking solo through the mall. Bitches and the hoes know they see me, they like, there he go. They be like, there he go, school boy, there he go. Chiefing like a motherfucking Seminole. Here we go, off probation, probably go to Mexico. Furthermore, can't find us in the store, this shit ain't for the low. Got my daughter swagging like her motherfucking daddy though. What a motherfucking view. Nappy chin hairs, bitch, I'm motherfucking full of my strips and his chin hairs, bitch, I'm motherfucking kill. Motherfucker, motherfucker, yeah, fucking is my favorite word. Reason why I'm fucking her. She swallow my dick and balls, whatever occur. Purr. I love that kitty cat, ass fat. Throw it back, I can't believe you watching that. Deep throat, 7 or 11, she's a double go. My pistol drawn, her boyfriend got me paranoid. Nigga try sneaking up on me and I'm making noise. But what I felt to understand, I'm the motherfucking man. Ran into a paper man. Goddamn. Just a young ass nigga not giving a fuck. Cause if I ever did, I'd be wifing her up. My heart real black, I don't trust a bitch. I hate this fucking world, y'all can suck my dick. If it don't make dollars, then it don't make sense. But never use a nigga just to get too rich. I always try to smile, but the world is fake. The world is a house with a yard full of snakes. I don't have money, I don't have cars. All I got is the truth and a couple of bars. All I need is a beat and some O to the E. Destroying competition cause the style is unique. My patience real short, so just walk in my shoes. My mind fucked up mentally to abuse. Don't accuse me to be a nigga who hate. I always show love from city to state. So ride real slow as I murder the sound. The screaming in the back represent hell's ground. Un po' di problemi tecnici. Un bel po' di problemi tecnici. Vabbè, è così. Però dai, siamo sempre su Ragnan Paisa. Si cerca di arrabattarsi il meglio possibile. Sì. Andiamo contro le intemperie. Chiaro. Comunque, nello sgangherato e rabbertucciato set, vabbè, volevo suonare tipo il doppio dei pezzi e chiaramente non ce l'ho fatta. Comunque, ci sono un sacco di uscite nuove, di grandischi nuovi che sono usciti durante l'estate, appena prima dell'estate, durante l'estate e a settembre. Quindi insomma, ora piano piano ve li suoneremo tutti, ve li diremo. Ora va così, è la prima puntata. Sì, quindi è un po' come al solito, un po' improvvisato. Il tutto un po' improvvisato. Comunque, giusto un po' di nomi che sono usciti, di dischi che secondo me vale la pena acquistare. Nas, Rick Ross, Space Ghost Purp, anche se è uscito parecchio prima dell'estate, l'avevo anche suonato nella stagione scorsa. Frank Ocean e sì. Kanye West, Good Music. E così Tonight, Alzo Mauch e Lunis, e un botto di altra roba che poi vedrete nella playlist del post di domani, su ragnanpaisa.blogspot.com. Andiamo avanti noi. Adesso sta a Biga per la sua per i suoi 20 minuti. Restate con noi e ci sentiamo dopo. Ciao. Yo. You should be.

I'm Pfizer. Osservando la mia arte che fa parte di un disegno così lontano, così spontaneo, mi impegno e così mi allontano per trovare ancora un treno da Milano, per suonare il boom bap sul Mediterraneo o sul Mar del Nord con Stefano Benni al bar dello sport, un caffè e di nuovo un suono dalle casse che ispira il fraseggio, il cazzeggio, l'amore è bello uscire a passeggio, schede bianche al seggio, qualcuno è assente, qualcuno sente le mie gemme, qualcuno c'è sempre, tiene a mente lo studente di Tiananmen, amen, rime come le clave di un maio in un'astronave. Allora, ora c'è da dire un po' di roba. Ecco, ce la siamo tenuti tutta insieme. Ora mi dispiace andare sul pezzo di Aza Funk Prez. E ci facciamo perdonare facendogli gli auguri. Auguri. Buon compleanno, man. Prez. Auguri, Prezzone. Continua a deliziarci con un miliardo di robe che escono. Yo, unstoppable. Insomma, man, c'ho un po' di cose da dire. Partiamo con Aza proprio, che sabato suona al volume, ah, Piazza Santo Spirito, per la prima serata della rassegna Grubber Soul. Rassegna. La rassegna. La buon vecchia rassegna. Ora va di moda la rassegna. Ora va dentro, lo sai, brother. Non si segue. No, se tu se la volevi far andare ancora più di moda, la dovevi chiamare in francese. Perché va di moda allora, chiamare di moda le francese, cose in francese. Non so come si dice allora. Rassegna. La rassegna. Insomma, brother, la prima Grubber Soul. La prima serata che poi si svolgerà della rassegna, che si svolgerà ogni primo sabato del mese, mm-hmm. al volume in Piazza Santo Spirito, mm-hmm. e il primo ospite sarà Ezad Funk Pretz con un 40 minuti di un'ora di live set di beats con macchinette, strictly macchinetta, e poi con un DJ set strictly vinile. Quindi ce la facciamo così, la facciamo hipster, capito? La storia, hai capito? La vuoi quindi, fare diversa. Ovviamente free entry, il volume non se ne parla nemmeno. E tanto ce n'è di volume. Tu lo sai. Il volume. E niente. E il volume si è detto dov'è? Il volume in Piazza Santo Spirito, l'ho detto 7 volte. Ok. E invece volevo dare un'anticipazione sul disco di Night Skinny, di cui non ho suonato una pre perché non avevo le tracce, però esiste un video che è uscito, un making of di 30 secondi, insomma del nuovo pezzo con Clementino sul esatto. disco del Night Skinny. Tra l'altro potete vedere anche su Rapburger, www.rapburger.it, oppure sul sito di Night Skinny stesso, mm-hmm. sì, Edengardenstudio.com, esatto. E troverete quello e altre belle cose del nostro mm-hmm. brother Night Skinny. A proposito di teaser, beccatevi su strettoblaster.blogspot.com. L'amico Fiume sta facendo uscire tutta una serie di teaser del suo prossimo lavoro, che vedrà la luce credo il prossimo anno. Comunque stategli dietro e beccatevelo quando esce. Bom. E niente, vi lasciamo a sentire Colossus. Hai suonato il 45 di Colossus. Ho suonato anche il 45 di Colossus, che è uscito su Fresh Yo, mm-hmm. e che poi tra l'altro è la curatrice della serata, la principale curatrice della serata del volume, l'etichetta Fresh Yo. E la maggior parte degli ospiti, eccetto proprio Esa, sarà insomma della scuderia dell'etichetta, tra cui ci sarà anche il Colossus prossimamente, e l'Omane Misra, Desanimo e altri. Oltretutto è uscito per Phonocake il remix del disco Zambra del nostro uh-huh. Digigalesso, di cui ho suonato un paio di tracce, e anche il volume, la compila September dei Guaglioni Iru, Bombus esatto. e GCQ, di cui poi daremo il link perché adesso non abbiamo più tempo, tanto risuoneremo sì, prossimamente. Infatti ce li avevo in scaletta, poi è successo il finimondo e non li ho potuti suonare. Buona la prima. Guaglio, Colossus. A lunedì prossimo. Yo! questo che state sentendo è un pre-release. No, questo pezzo è di viene direttamente dal promo di DJ Earl del 12 dell'EP di DJ Earl che uscirà per Lil Peach prossimamente. Sinceramente la data ancora non è definitiva, però o a fine anno o ad anno nuovo. Lil Peach, etichetta italiana. Un salutone agli amici Riccardo e Paolo. Comunque questo EP è tutto DJ Earl, con tutte tracce di DJ Earl, con un remix di Box Cutter, vinile e digitale. Quindi insomma, state dietro a noi, state dietro a Lil Peach, e quando esce prendetelo alla svelta, perché comunque queste robe in vinile appena vanno sold out poi non le ritrovi più. We'll be right back. ain't fucking with this originalist. Beats ain't banging like this, but Borealis, this uninventiveness amaze me. Say to the lyrically bite from both T, but my ethereal rap, sixth sense speaking to cats, I'm bringing them back like Bruce Willis and Mad. Matter of fact, I'm laughing at cats who pack gats. Lyrically doomed like Kennedy dying and planes flying in flames. Forever blowing up cats like black pumps, scorching your back and torching your eardrums with tongues. Big shot, check if your mic is on. A 1, 2, yes, my mic is on. A hypno, check if your mic is on. A 1, 2, yes, my mic is on. Some of these brothers can't rhyme. You want proof? The freshest group since 93 was the Spooks. And I'm Spooks, no bullshitting. Last chance to start quitting. Before we start tripping, unleash and start ripping. Living some gory shit that you don't want to witness. No stopping it, y'all know your limits, y'all not fucking with this. Beautiful bliss, man, my spook click will persist. Eat you for breakfast and plus we'll blow you a death kiss. Why would you set this objective you can't achieve? Cease and desist, my click came to make you believe. I know y'all looking for something fresh, something that y'all haven't heard yet. Something original and subliminal. Let me hear you say. I know y'all looking for something fresh, something that y'all haven't heard yet. Something original and subliminal. Jacobs, that's the way your real diva like to floss it. Buy a car no matter what it costs. It's of course, it's my Rolls Royces. Make them nauseous. Tell you who the motherfucking boss is. I'm driving, you walking, that's why you're talking. See the chrome spinning on the wheel. Stop, jaw, jaw, jaw, jaw. E adesso al microfono c'è DJ Grasso. Eleviamoci sto sfizio e boh. Non è che l'inizio come Dimo. Che faccio, seleziono e se l'aziono sono lo zio, no, mi penso mentre mi emoziono, cugremu cugremu mentre mi faccio anziano, pensavo a tre concerti in lista con lo stesso nome, stesso furgone, più storti dell'autista, più terti di Meshon in action sul tempismo che devasta, tu stava, sensativa e se ti va, ci portiamo pure tutta l'isola, gay boss e all star, facciamo un trip to Mars come i royali, da costa a costa, svarioni maniacali, con il mio socio, pazza e presenza, un ginepro copro tutta la paranza, coffer di speaker di Malesio Mana, ne fa bide de paparichi. Come state, dove siete adesso, dove siete adesso? Moons move at tremendous velocity, some zipping around the planet several times in a single Earth day. The moon blasts angry bursts of volcanic fire. Spectral analysis complete. Voyager 2 collected this remarkable sequence in 1979.